Siete su Domenica Prossima e questa è la sigla. Siamo qui su Domenica Prossima, anche questa domenica arriva il pubblico nel frattempo, proprio nell'esatto secondo in cui iniziamo. E niente, avremo un solo conduttore forse, o forse ne avremo 3-4 perché sono appena arrivati. Se si vogliono sostituire al mio partner usuale, che è abbastanza devastato. Sì, devo dire che è stato un lungo weekend qua a Londra. Io sono uscito 2 sere di fila, devastandomi. Sei uscito in maniera, fuori di testa, diciamo. Devastandomi in maniera che voi umani non potete immaginare. Ma ora hai delle peanuts, stai brandendo delle peanuts. Sì, sto consolando con queste noccioline. Delle peanuts ginkgo. Che ti daranno la giusta carica. Carica per riprendermi per iniziare la settimana domani. Ma nel frattempo mi sa che stasera lascerò la conduzione a te. E quindi questa trasmissione di fatto ritornerà a essere Pink Moon. Vabbè, sì, diciamo che parleremo principalmente di musica. Non parleremo di fascisti. Non parleremo di niente. Parleremo solamente di musica. Va bene? Va bene? Va bene. No, principalmente il compleanno di Bob Marley, due giorni fa, oggi. Avrebbe fatto 70 anni. o forse li ha fatti perché magari è ancora vivo, come Nolan. Vive nascosto in Sud America sotto false identità. Esatto. Come Elvis Presley. Sì, e Paul McCartney, che non è morto. No, che è morto. No, ah sì, lui è morto. Lui è morto. Ma c'è un sosia che lo impersonifica. Esatto, va tutte le settimane su Canale 5 a impersonificarlo. Oh, cheers. Mi hanno portato una ginger beer. Visto il fatto che non posso bere, non è una birra. Mamma, non è una birra. La ginger beer è analcolica, una tipica bevanda giamaicana, tra l'altro, quindi si sposa con Bob Marley. Perfetto. La birra di zenzero. Esatto. Abbiamo degli ospiti qui, li faremo intervenire anche con la forza. No, vabbè, se vogliono intervenire, interverranno. Diciamo un attimo, questi ospiti sono venuti con una scorta di patatine. Arachnidi. Doritos. Chi più ne ha più ne metta. Io direi di partire con una traccia di alleggerimento. La famosa traccia di alleggerimento. Cos'è, un pezzo di metal? No, tra l'altro sì. Ora metto un pezzo tranquillo. È stato bellissimo domenica scorsa. E loro sono i Converge. No, dai. Vabbè, comunque. No, sono dei pezzi. Vabbè, un pezzo d'alleggerimento. Neanche vi dico chi sono. Ve lo dico poi quando torniamo in studio. E ci sentiamo dopo. Thank you. out of Storm Creek. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Loro erano gli Hightone francesi, francesini, digital dub. Magari poi dedicheremo una puntata. Vabbè, diciamo sempre così. Magari poi dedicheremo una puntata. No, perché no? Leggevo qualche diatriba fra chi era un fautore strenuo, no, della digital dub, e chi invece diceva che alla fine era semplicissimo accrocchiare due suoni e farla suonare. Preferivo ovviamente la dub più roots, quella di Kim Tubby, però senza andare troppo nel tecnico, magari dedicheremo poi una puntata non intera, però una parte, per spiegare almeno che cosa vuole dire, perché ancora sento dappertutto dire: il DJ non suona, quelli che suonano sono quelli che hanno gli strumenti veri. Non c'è più la dub di una volta. Non c'è più la dub di una volta. Era meglio quando c'era il fascismo. Non dire fascismo, guarda, non dire. No, a parte gli scherzi, vabbè, in questa puntata andremo principalmente sul roots, ma nemmeno dub. La dub ai tempi ancora non si conosceva, perché poi quando arrivò il simpatico King Tubby a prendere i riddim di basso, e metterli sui lati B dei vinili, parliamo già di qualche anno dopo rispetto a quello di cui andremo a parlare ora, ed è Bob Marley. due giorni fa avrebbe compiuto 70 anni. Bob Marley. Io faccio gli interventi cazzoni. Vabbè, questa è la, diciamo, è solo per le persone di Reggio e provincia, possono, anche se poi Tony è diventato abbastanza nazionale, sì, un eroe nazionale. Però senza divagare troppo, ho dimenticato quello che volevo ma divaghiamo pure. No, nel senso, vabbè, a me non me ne frega principalmente niente dei compleanni, anzi, non fai gli auguri a nessun compleanno. No, dipende, va, se le persone ci tengono, allora sì. sai, è il mio compleanno oggi. Auguri. Fai gli auguri su Facebook, no, quando la gente fa il compleanno. No, no, no. Ma nemmeno di persona. Nemmeno di persona. Sei contrario. Ma no, contrario, no, è un po' una delle mie centinaia di fissazioni. Però comunque Bob Marley se lo meritava. E ho pensato, perché no, visto che Samuele è devastato, rantola a terra, addolorato. E niente, principalmente sì, è stato come i Beatles, come tutte le grandi figure leggendarie della musica, si è detto di tutto su Bob Marley. Molta gente dice si facesse le canne, secondo me non sono solo voci, sono voci che... Dicono addirittura che avesse delle ustioni sul viso provocate da anni e anni di... È vero, sì, aveva le bruciature. Questo è vero. Sì, questo è vero. No. Ma... Pensa quale cazzata. No, no. Cioè, le ustioni da... E vabbè, da, certo, con quelle so torce... Si ustionava in faccia, aveva un sacco di cicatrici in faccia provocate dalle canne. Dalle canne. Ragazzi, non imitatelo perché... Sì, se li spegneva in faccia. Se li spegneva in faccia. Cioè, era così obnubilato dalla droga che si spegneva i mozziconi in faccia. No, a parte gli scherzi... no, poi non era uno scherzo, non sapevo di queste ustioni di Bob Marley. Praticamente sì, nel senso, cosa stai andando a cercare? Bruciature chimiche. No, vabbè, principalmente aspetta, dammi un secondo, se no mi impallo. No, ho preparato, diciamo, una playlist su qualche album, perché, diciamo, i primi album sono stati abbastanza, roots, per abusare di questo termine. Piano piano, poi, con le varie etichette, con i vari interessamenti, ovviamente, di persone sempre più orientate a fare soldi, ovviamente, il sound si è via via modificato. Ad esempio, il produttore Chris Blackwell, che poi sarà un grosso produttore per quanto riguarda la musica dub, gli consiglio di smussare il bassone classico reggae e di, diciamo, sì, levigarlo un poco, perché non era adatto, diciamo, ad un pubblico all'infuori della Giamaica, ad esempio. Quindi un prodotto buono per l'Inghilterra, e lui addirittura, Bob Marley, prese questo aereo e se ne andò a seguire questi lavori di smussamento del suono fin nello studio di Blackwell, per assicurarsi che, appunto, non modificasse troppo il sound che lui, Peter Tosh e Bunny Wailer, diciamo, i tre che erano, diciamo, i principali fondatori dei Wailers, avevano contribuito a formare. Partiamo con un pezzo, devo ribeccarlo, eccolo qui. Partiamo con un pezzo di il primo album, il primo vero album, perché il primo album è stato prodotto con Leslie Kong, però il primo vero album, quello che da molti è considerato anche il miglior periodo dei Wailers, ha lo zampino di un signorotto che si chiama Lee Scratch Perry e che voi forse ben conoscete. Se non lo conoscete, andatelo ad ascoltare, perché ha prodotto un casino di roba veramente figa. Il pezzo è Soul Rebel, è stato preso, riarrangiato, coverizzato in mille salse. Anche Diego Abbatantuono ne ha fatto una famosa versione e poi è andata a finire su Canale 5. No, questo non è assolutamente vero. Ci sentiamo dopo. Questo è Soul Rebel e buon ascolto. Questa era Soul Rebel e diciamo che i Wailer collaborarono con Lee Scratch Perry per qualche anno, e Lee Scratch Perry è stato veramente fondamentale per quanto riguarda la crescita di Bob Marley, che diciamo con il primo album era abbastanza dozzinale, per così dire, e invece Lee Scratch Perry lo ha fatto crescere per quanto riguarda anche la stesura dei testi, gli arrangiamenti. Ovviamente era un grande talento Bob, però non aveva, diciamo, avuto fino a quel momento dei grandissimi maestri. Lì Scratch Perry appunto è stato fondamentale per la sua crescita. Inizia a scrivere appunto di tematiche che ovviamente erano molto importanti, soprattutto nel suo sobborgo, diciamo, di Trenchtown, vicino Kingston. Ovviamente erano diciamo dei luoghi abbastanza abbastanza rudi, non per questo erano popolati dai cosiddetti rude boys, che erano dei ragazzi che, a parte il fatto dei dreadlocks e dell'acconciatura rasta, seguivano diciamo una logica di antisistema e di ribellione che era per la maggior parte del tempo violenta. Infatti Bob si metteva, diciamo, si collocava a metà fra questa voglia di ribellarsi al sistema e alle logiche che hanno sempre visto comunque le minoranze razziali soccombere, ovviamente i più violenti, i rude boys, che comunque avevano un'attitudine abbastanza aggressiva, per così dire. E Bob ha sempre sofferto la sua, diciamo, appartenenza ad una razza tra virgolette a metà, perché suo padre era un bianco e sua madre era una nera giamaicana, e lui è stato sempre vittima ovviamente di vessazioni lì a Trenchtown. E questo poi ovviamente piano piano la sua coscienza è cresciuta sempre di più per quanto riguarda queste tematiche. E poi per un periodo si è spostato in America, e quando è tornato poi in Giamaica ha deciso di sposare la fede rasta, ha iniziato a crescere i dreadlock e diciamo si è sempre più avvicinato al lato religioso della questione reggae. Non l'ha mai vista come un qualcosa di musicale e basta, anzi era quasi una sorta di missione in cui appunto la weed, la marijuana, aveva un ruolo centrale proprio come raggiungimento di, diciamo, alte vette. Ma di questo ne parleremo dopo, perché può essere un argomento abbastanza stereotipato. Sì, Bob Marley, la marijuana, le canne, invece c'è molto di più. Il prossimo pezzo è Dappy Conqueror. Ovviamente dopo il 74 Peter Tosh e Bunny Wailer. Bunny Wailer era lo storico percussionista e Peter Tosh suonava sia le tastiere sia la chitarra. Decidono di proseguire con le loro carriere soliste, e quindi i Wailers si, diciamo, sciolgono, però ovviamente Bob Marley continua ad usare il nome Wailers. E entra addirittura Junior Marvin alle chitarre, il famoso Junior Marvin, e continueranno poi a sfornare album veramente interessanti. Questo pezzo si chiama Dappy Conqueror e ci sentiamo dopo. Now, but through the past. Questa era Dappy Conqueror e ci tenevo a approfondire anche l'ultima parte della sua vita, nel senso che i suoi ultimi lavori, innanzitutto aveva deciso di fare una trilogia di album, però ovviamente il male che lo ha colpito non gli ha permesso di completarla, e i primi due capitoli di questa trilogia erano Survival e Uprising. Ovviamente questi due album sono usciti prima che lui morisse, nell'81, e Survival è principalmente il suo album più politico, mentre Uprising è un album molto orientato sulla religione e l'aspetto religioso della sua vita. Per quanto riguarda Survival, già dalla copertina, personalmente è il mio disco preferito di Marley, già dalla copertina ci sono diciamo quasi tutte le bandiere dell'Africa, anche se Marley ovviamente veniva dalla Giamaica e quindi dai Caraibi, è sempre stato legato alle tematiche alle tematiche riguardanti appunto i popoli africani, e ovviamente penso perché gli ricordavano queste lotte razziali che appunto doveva queste discriminazioni razziali che subiva lui a Trenchtown in Giamaica, e si è sempre schierato a favore di una soluzione pacifica ai conflitti, e questo album ha canzoni come Africa Unite molto, molto famose e molto mainstream, per così dire, però fra queste c'è una delle mie preferite, si chiama Babylon System, ed è appunto un attacco alla famosa Babilonia. Per Babilonia ovviamente i Rasta intendono principalmente l'Occidente, però l'Occidente ovviamente nei suoi lati più funesti, nel senso i soldi, la corruzione dell'anima, il capitalismo, che appunto avvolge le nostre anime, non ci lascia scampo. E questo per Bob era un argomento centrale. E appunto Babylon System si scaglia su appunto le chiese, le università, i luoghi diciamo più simbolici dell'Occidente, e contro i quali secondo lui appunto bisognava cercare di ovviamente tutti quelli che non furcinia mi entrano delle voci in te. Ovviamente si doveva cercare di aderire il più possibile ad una purezza d'animo che in molte vie e in molte strade ha sempre cercato Bob. Prima di passare poi ad un pezzo di Uprising, che è appunto l'album più religioso e anche l'ultimo album pubblicato da Bob Marley in vita, passiamo questa Babylon System da Survival e ci sentiamo dopo. What you wanted us to be. We are what we are. That's the way it's going to be. If you don't know, you can't educate us or no equal opportunity. Talking about my freedom. People. Rebel, rebel, Questo era un pezzo di... Ripeti con me la prossima volta che... No, questo era un pezzo di John Cage. Ah. Era una performance. Era, si chiamava Fart. Ah, era fatto apposta. E appunto è John Cage che scorreggia. Scorreggia in maniera potente. E questa performance la potrete trovare al MoMA di New York dal 7 settembre. Ma no, stavo pensando quanto diavolo sia difficile parlare in radio da solo. E quando il tuo partner rantola a terra con i postumi dell'hangover, e appunto è molto più difficile, anche perché sì, cioè o la butto sul diciamo, come dire, sul nerd geek musicale o niente. E, no, stavo dicendo appunto che questa mi ha detto il mio partner da terra, si è alzato. Non smetti di chiamarmi il tuo partner. Il mio partner. Quasi in diretta. È praticamente... Non parlare delle cose private tra di noi che vengono a microfono spento. Praticamente sì, Babylon System mi ritrovo a cantarla spesso prima di andare al lavoro. E penso a tutte le cose malvagie di questo occidente che ci mangia, ci ingloba, ci dentro, sfrutta. Ci sfrutta. Ci ammazza, però noi siamo più forti. A parte questo c'è Fefo che grida a gran voce Damn Belly Full, che è una canzone che appunto abbiamo cantato a squarciagola, anche se no, a squarciagola no, però a squarciagola lo apprezzerà molto Ciccio Sirk se ci sta sentendo. Lui è un fedelissimo della trasmissione, anzi lo ringrazio perché probabilmente sta facendo il logo della trasmissione. Lui è l'autore, Ciccio Sirk, diciamolo, ecco, ora spendo un minuto della trasmissione per fare un plauso a Ciccio Sirk. Oltre ad essere, vabbè, mio mentore per quanto riguarda l'hip hop, è uno dei più grandi, se non per dire il più grande writer di Reggio Calabria, possiamo dirlo? Lo possiamo dire. Ha praticamente realizzato tutti i loghi e la grafica, le grafiche, i poster che vedete sulla pagina Facebook di Transizione di Fase, che spaccano veramente. E grazie Ciccio, se vorrai appunto fare il logo per domenica prossima, per questa umile trasmissione, ti ringraziamo assai. Vorrei spendermi in un altro elogio, sempre con un sorriso... Sempre con un grande sorriso, Ciccio, sempre che ride, sì, una presa bene. Sì, anche troppo, perché gli dai un ricordiamo pugno in faccia e ride sempre. Esatto, se ne fotte un cazzo. Certe volte sì, abbiamo rischiato di trovarci all'ospedale per le famose crisi di riso di Ciccio Sirk. questa comunque è Damn Belly Full, per i tempi di Flaminio, penso. Sì, l'abbiamo suonata molto, molto, molto. Da Natty Dread, ci sentiamo dopo. Start a cry. Now the weak must get strong. This after tribulation. Them belly full, but we hungry. Hungry mob is a hungry mob. Rain or fall, but the dirt is tough. A pot of yoke, but you not enough. We're gonna chuck to jam music. Chucking. Hey, we're chucking to jam music. We're chucking. Eccoci qui di nuovo in studio, sempre da solo, sempre da solo, grazie Samuele, guarda, stasera, guarda, non voglio sapere un cazzo della fai tu la trasmissione, io sono qua che rantolo a terra mentre mi dimeno. Ecco, lo vedete? Sì, l'ultimo pezzo è un pezzo che, per concludere l'argomento Marley, ovviamente ci sono molti documentari. Tra l'altro l'ultimo documentario penso si chiami proprio Marley, io l'ho visto, sì, l'ho visto al cinema. Tra l'altro, vabbè, no, lasciamo stare le condizioni in cui l'ho visto al cinema, anche perché non me ne può fregare. No, ora lo voglio sapere in che condizioni ti è arrivata una super bomba. No, ero al multisala Lumière. Ecco perché eri in cattive condizioni. Praticamente la sala, in sala veramente c'erano penso 38 gradi, si moriva, non c'era uno straccio di aria condizionata. I sedili sembravano quelli di Ayrton Senna sulla monoposto, cioè praticamente cioè, non avevi le gambe piegate, ma ce l'avevi lunghe lunghe come se fossi a terra. E la metà del film, l'intervallo, l'hanno praticamente decapitato, cioè a metà mentre Marley stava parlando, tipo pum, ho detto che diavolo è successo, tipo si stanno, magari tipo non lo so, se n'è andata la luce, no, invece no, era semplicemente l'intervallo. Poi è entrato un signore che ha gridato: "Oh, sono pulito popcorn!" venite con l'intervallo, chissà. Per i non reggini praticamente urlava: "Se volete dei popcorn, vedete che questo è l'intervallo." E poi sì, praticamente le poche persone che erano in sala se ne sono andate e siamo rimasti solamente noi a vedere il film. Vabbè, comunque, a parte questo simpatico aneddoto, del quale appunto non ve ne frega una ceppa, è un ottimo documentario, si chiama Marley, appunto, ce ne sono molti, ci sono molte interviste di Bob Marley sul web, però questo documentario è abbastanza ben fatto e dura tra l'altro un botto e va molto a fondo anche nel suo rapporto appunto con le sue innumerevoli donne. Vabbè, lui ha avuto 13 figli con 8 mogli diverse, i più famosi ovviamente Damian Marley e Ziggy Marley. Tra l'altro sul finire della sua vita ha sussurrato a Damien, che appunto gli si è avvicinato al capezzale, gli ha sussurrato questa cosa dicendo: "I soldi non possono comprare la vita." È una cosa che è rimasta abbastanza impressa a Damien, che poi ha avuto una carriera solista niente male. Lasciamo l'argomento Bob Marley con Punky Reggae Party e ci sentiamo dopo. Oh. Ed eccoci qua, siamo ritornati, abbiamo un ospite, praticamente quest'ospite ha espresso il desiderio di mettere un pezzo a tema. Che pezzo è? Io prima volevo parlare di politica. Intimato di non parlare. No, non è vero, puoi dire quello che vuoi. Voglio solamente introdurre un pezzo dei Rolling Stones di Peter Tosh, che è dell'album Peter periodo, Tosh. Peter Tosh. Chi è? Chi è? Ce lo dice Michelangelo. Michelangelo chi era Peter Tosh. No, Peter Tosh era appunto uno dei tre fondatori dei Wailers, fido compagno di Bob Marley, insieme a Bunny Wailer. Ha avuto una sua carriera solista molto, molto soddisfacente. Non sapevo però io di questa cover. Io sono qui apposta a dirlo. Dell'album Black and Blue, del periodo giamaicano dei Rolling Stones, registrato in Giamaica. Cherry O' Baby. Ok, no, mi devi dare un secondo. Vai su YouTube. No, mi devi dare un secondo per togliere la canzone e poi ripartirla. Allora, loro sono i Rolling Stones, questo gruppo di ragazzotti emergenti di Londra, sì. Sono di Londra. Giovanotti. Sono di Londra. Sì, sono di Londra. Mi pare che erano di Deptford, originale. Mick Jagger e Keith Richards. Incredibile. Forse sto dicendo cazzate. Va bene, cercheremo su internet e vi faremo sapere. Vai. A dopo. Yeah! È ancora la performance di John Cale dai Velvet Underground. Torniamo qua in studio. Alex ha postato una graziosa foto che tra l'altro stavamo guardando subito dopo e commentando subito dopo il pezzo di Peter Tosh fatto dai Rolling Stones. Se avete occasione di guardarla, fatelo, perché fa morire dalle risate. Praticamente c'è Mick Jagger in mezzo a Bob Marley alla sua destra e Peter Tosh alla sua sinistra, con dei sorrisi incredibili e un Mick Jagger devastato di felicità. E appunto andate a beccarla su internet, perché è una foto spettacolare. Bene, Marco non vuole parlare del concerto dei Rolling Stones che ha visto ad Hyde Park poco tempo fa, quindi andiamo su altri lidi. Abbiamo concluso la parentesi reggae, anche perché magari immedesimandomi in una persona che non ama questo tipo di sonorità, potrebbe dire Duvalle. Ma siccome diciamo siamo abbastanza bipolari in questa trasmissione, devo dire sono, perché mi hanno lasciato solo quest'oggi, volevo parlare di un pezzo, semplicemente per l'assonanza con Domenica Prossima. Mi è venuto in mente un pezzo di De André oggi, cercando di selezionare qualche pezzo, ed è la Domenica delle Salme. Molti di voi la conosceranno, è un pezzo che appartiene all'album Le Nuvole del 90, è un pezzo molto, molto di protesta nei confronti soprattutto di tutti i cantanti e tutti le persone diciamo all'interno del mondo dello spettacolo, che ovviamente De André considerava suoi colleghi. Secondo Fabrizio non erano abbastanza le loro voci, per citare appunto le liriche del testo, non erano abbastanza potenti per mandare a fanculo, così dice la canzone, ovviamente parafrasando diciamo una certa vicinanza alle logiche del potere, ovviamente cantanti asserviti ai potenti e alle logiche del soldo, del danaro. Tra l'altro traccia composta insieme a Mauro Pagani, con il quale aveva già collaborato per Creuse de Ma, che era ovviamente un album fondamentale, tutto in genovese, in dialetto genovese. Avevano collaborato musicalmente per quell'album, hanno riproposto la collaborazione per quest'album. Devo dire che il risultato, soprattutto per questa canzone, è veramente incredibile. Questa canzone si chiama La Domenica delle Salme e ci sentiamo dopo. La fuga in tram verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della baggina, la sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto, sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua barba un pettirosso da combattimento. I polacchi non morirono subito e, inginocchiati agli ultimi semafori, rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro, e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La domenica delle salme non si udirono fucilate, il gas esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri, e le regine del tua culpa affollarono i parrucchieri. Nell'assolata galera patria, il secondo secondino disse a baffi di sego che era il primo: si può fare domani sul far del mattino. E furono inviati messi, fanti, cavalli, cani ed un somaro ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio, il carbonaro. Il ministro dei temporali, in un tripudio di tromboni, auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile. Domenica delle salme, nessuno si fece male, tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare: quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare. Accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi e dai padri maristi. Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo. Voi avevate voci potenti, adatte per il vaffanculo. La domenica delle salme, gli addetti alla nostalgia accompagnarono tra i flauti il cadavere di Utopia. La domenica delle salme fu una domenica come tante. Il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante. si gonfiava in un coro di vibrante protesta. Questa era la Domenica delle Salme di Fabrizio De André. Meno male mi sono ricordato di cosa dovevo parlare. praticamente mi è capitato di leggere un articolo su Neil Young, che appunto sta presentando una specie di dispositivo di ascolto ad alta qualità che ha inventato lui e che appunto sarà disponibile su internet a breve. Diciamo, per presentarlo ovviamente ha fatto delle conferenze stampa nelle quali parlato del vinile e si è tra virgolette scagliato sull'uso che si fa quest'oggi in tempi moderni di questo supporto. Ovviamente c'è l'annosa questione di sempre sul fatto se sia meglio ascoltare la musica su vinile oppure su CD oppure sugli MP3, perché io li scarico a 320 kilobyte, allora non si possono, non si può capire la differenza tra vinile e MP3. Insomma, ognuno ascolta la musica come diavolo gli pare, però la sua affermazione era quella che appunto i vinili, principalmente quelli moderni che ovviamente le case discografiche stampano ora, sono dei master che provengono dal CD, e quindi ovviamente il formato, già essendo in digitale, non migliora la qualità se poi trasportato su vinile. Quindi secondo lui è una sorta di moda quella che sta andando ora sulla rivalutazione del vinile, e sono le stesse case discografiche che stanno cercando di spingere da questo punto di vista. E c'è da dire ovviamente che questa intervista a questa radio americana si inseriva in questo contesto di presentazione del suo sistema audio, quindi diciamo è un po' di parte, compare Neil. Ovviamente questo sistema di ascolto ad alta qualità sarà disponibile fra un poco, con l'evoluzione della musica tra lo streaming e tra tutte le varie modalità di ascolto, è qualcosa che ovviamente andrà, non lo so se ad arricchire o sarà la solita, diciamo, minestra riscaldata e avrà il marchio di Neil Young stampato di sopra. Però a noi piace ricordarlo così, ovviamente con i suoi capolavori. Ho scelto appunto qualche traccia da Harvest e da After the Gold Rush. La prima traccia da Harvest è There's a World. E ci sentiamo dopo. Children E chiudiamo il capitolo Neil Young con un altro pezzo da Harvest. Sì, appunto, Marco ha apprezzato molto, rompiu veramente assai. Questa è Out on the Weekend ed è il pezzo d'apertura di Harvest. E ci sentiamo dopo per la chiusura. A dopo. Mi stavo dimenticando di passare il pezzo di limitazione. Tra l'altro stiamo andando a ritroso dalla lettera Z alla lettera A, quindi in rigoroso ordine alfabetico. Dopo Bob Marley e Neil Young andiamo un po' a blastare, a fare un poco di casino. Loro sono i Venere Grida, la canzone si chiama Strati di Odio. Sono un gruppo attivo dal 98 e li mandiamo perché fanno parte della compilation Limitazione, l'abbiamo detto, sì. Sì, ci siamo presi questo accollo di mandare questi 26 brani. Ne mandiamo uno a puntata. Intanto Samuele è risorto. Sì, in realtà mi sento un pochino meglio con queste noccioline che sto mangiando. Queste noccioline ginkgo. Mi stanno ridando la forza e la voglia di campare. Va bene, loro sono i Venere Grida, la canzone si chiama Strati di Odio e ci sentiamo dopo per la chiusura. Eccoci qui per la chiusura, è stata una puntata, diciamo, da geek musicale, molto sommessa. E devo dire, però ci sta, non è che uno può dire sempre minchiate, va. No, infatti, ma soprattutto è stato bello il passaggio da Bob Marley e Venere Grida. È stato un super stacco. Che ha risvegliato anche me dal mio torpore. E appunto per come pezzo di chiusura, però ovviamente lasceremo la playlist per chi è ancora connesso, la lasciamo ancora un poco. come pezzo di chiusura vi lasciamo con uno degli album, anzi il mio album preferito dei Cure. Ma dai. Ma sì. No, poi ovviamente dico questa cosa, magari potremmo parlarne in un'altra trasmissione. l'album è Pornography, se avete occasione ovviamente ascoltatevelo, se lo conoscete ascoltatevelo di nuovo. Ed è appunto sì, una bella mattanza, lo preferisco molto rispetto a Disintegration, che sì, è anche un capolavoro, però molto più claustrofobico. Pornography, questo pezzo si chiama The Figurehead, che ovviamente si dice The Figured. Non lo so, tu vuoi continuare a mangiare noccioline o vuoi fare un saluto? No, mi stanno dando forza le noccioline. Ok, se vuoi puoi anche continuare per la prossima mezz'ora. Ti lascio, anzi, sapete che cosa facciamo? Lascio Samuele da solo per fare la chiusura. Mettiamo il pezzo dei Cure, The Figurehead, e poi Samuele chiude e ci sentiamo dopo. Rieccoci qua, questa volta parlo io, mi sono un attimino ripreso. Questa settimana sono mancato causa abusi vari e protratti tutto il weekend. E adesso Mica mi ha lasciato solo a fare la chiusura. Sei qua, ecco, ti eri nascosto. Perché si voleva vendicare del fatto che non avendo una spalla, dice lui che è più difficile fare la trasmissione. E quindi, insomma, me l'ha fatto pesare. E vabbè, sì, nonostante io stessi dei, male. Dei tempi in cui, sì, non so più parlare di tempo, prego. lasci perdere così proprio. Bisogna ricordarci tutto. Vabbè, niente, dai, quindi chiudiamo perché siamo già a quasi 2 ore di trasmissione, un po' pesantuccia come lunghezza. Ricordiamo che siamo domenica prossima. Ma noi non dobbiamo piacere alla gente. Infatti noi ce ne fottiamo, se a voi non piace vi scollegate, cioè andate su un altro sito, su un'altra radio, cioè, esatto. E facciamo pure un rutto. Niente, siamo domenica prossima su Transizione di Fase, una radio antifascista, antirazzista e antisessista. Ci sentiamo domenica prossima, saremo di nuovo insieme io e Mick, con una trasmissione un po' più curata. No, magari meno... chiamiamo qualcheduno. Speriamo di avere ospiti, vediamo se... Chiamiamo qualcheduno e non parli più. E ti arrendi. Mica ha perso la parola. Si è mangiato una noccioline della felicità e ha perso la parola. Comunque, ci salutiamo qua. E l'ultimo pezzo lo metti. L'ultimo pezzo lo metto io. Ma io non ho preparato una mazza. E allora lo metto io. Un pezzo che Samuele mi ha prima mi ha implorato di mettere. Ecco, no, non ti fidi, vero? Non mi dai il mouse. Sì, anche il mouse. No, non lo faccio. No, ti prometto che non metto niente di pesante, veramente. Anche se ero stato super tentato. Era parte una cosa proprio. No. Sono i Giganti. La canzone si chiama Giorni di Festa. Appunto, questa canzone parla di adempiere appunto ai vostri doveri domenicali. Se non siete andati a messa, vi ricordo che potete andare anche lunedì. Non è un problema. Fanno il recupero lunedì per esatto, quelli che... per i ripetenti. E appunto sì, una canzone incentrata su questo. Non dovete avere paura appunto di sforare o di... Sforare? di non adempiere, diciamo, ai... Aprite il vostro cuore a Gesù. Esatto. Aprite la porta. Anzi, spalancate. Spalancate la porta a Gesù. Basta, dai. Tagliamola qua. Vabbè, lanciala tu. Ma qual era? Mica so cosa puoi mandare. Mica ti leggo. Giorni di festa dei giganti. Proprio scritto. No, eccola qui. Giorni di festa. Ciao, a domenica prossima. Ciao. Perché credo sia il mio dovere, penso proprio che andrò. Felice, perché? gente vive nell'amore, quanta gente vive per il bene, ora credo nell'amore, nell'amore. Bravo figliolo, sono contento che tu sia venuto a trovarci. Torna presto, vedrai, ti troverai bene.